mattina ti vedi qui davanti a me. Tu mi chiedevi perdono e il mio cuore diceva perdona. Ti dissi no e mi sbagliai. Che se ne andò, il solo uomo che amai e che vorrei con me. Non mi scorderai, mi dicesti tu, mentre andavi via, ed è vero, è vero. Quando ti ho chiesto perdono.